voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Ottava puntata. Gioventù. Un giorno di luglio ormai lontano, un uomo di 25 anni ricevette una cartolina da una ragazza di 18. La cartolina, che raffigurava una spiaggia con ombrelloni e un albergo bianco dalle tende bianche e gialle al vento, era stata spedita da Riccione, Italia, e diceva: «Qui ci si diverte moltissimo. Ciao, Maria». Maria lo amava. E anche lui amava Maria. Ma si erano lasciati da alcuni mesi per questioni banali che a loro erano parse di fondamentale importanza. All'uomo parve di non sentire nessun vuoto, anzi fu molto contento di questo abbandono perché pensava di avere un'intera vita davanti a sé. «Lei si diverte a Riccione», pensò con piacere, perché nulla di drammatico era accaduto e ognuno era andato per conto suo con il cuore in pace. «Benissimo, io vado a Forte dei Marmi». Salì sulla sua Topolino con una gran valigia e partì. Arrivò, non era mai stato a Forte dei Marmi. Trovò gli amici che lo festeggiarono e lo portarono alla capannina, a cena e a ballare. Naturalmente guardò le donne. Ma era timido, emotivo e in realtà non gli piacevano. Erano donne ricche o donne che giravano intorno ai ricchi, in calma attesa, e parevano avvolte da un involucro di calcolo e di aria fredda che rendeva fredda al tatto anche la loro bella e bronzea pelle. Non c'era nessuna corposità in quelle donne, nessun desiderio fisico, nessun sentimento verso gli altri uomini e le altre donne. Il loro modo di muoversi, di parlare, di guardare era come la superficie di un mare bello e limpido, di colore blu, con trasparenze e schiume, attraverso cui si vedeva perfettamente il fondo. In quel fondo di mare blu, nel momento in cui le schiume si ritiravano, l'uomo vedeva sempre il denaro. Però era bella Forte dei Marmi e ventilata e in certe ore ventosa. L'uomo passò due giorni così, tra quelle donne che pensavano sempre al denaro senza mai parlarne e giravano intorno ai ricchi come certi polipi intorno alle cozze, e i ricchi sorridendo, pagando, modestamente come tutti i ricchi, abbronzandosi e giocando a carte, chiudevano le loro valve. Ma i polipi sorridevano e aspettavano. All'uomo non parve una bella vita né felice. Si stufò presto e se ne andò, con stupore degli amici e indifferenza delle donne che giravano intorno ai ricchi. «Oh», disse una, «perché?» «Voglio fare un giro in Riviera, forse vado in Francia». «Oh, peccato», disse la donna, e sorrise lentamente come nuotando intorno alle cozze. L'uomo non aveva nulla in mente. Contrariamente al solito si svegliò all'alba. Pensava di girare lungo la Riviera Ligure, Porto Venere, Rapallo, Portofino, e magari anche Cannes, Monte Carlo e forse anche Biarritz. Chi gli aveva parlato delle onde dell'Atlantico a Biarritz? Non ricordava. Partì, andò a Porto Venere, Rapallo, Portofino, ma si sentiva inquieto, irrequieto e sempre più solo. A Rapallo non trovò da dormire in nessun albergo. Finì in una stanzuccia in una casa del porto, accanto a una cucina con piastrelle arabe e un fornello a carbone, che conteneva tutto l'odore grigio, chiuso e ostico della Liguria, che gli era totalmente estraneo e quasi lo spingeva fuori di casa per inospitalità. Questo aumentò l'irrequietezza, rinunciò alla Francia e chissà perché decise di andare a Milano. Guidava veloce, troppo veloce per una Topolino, e l'irrequietezza aumentava ad ogni momento. Sentiva qualcosa nell'aria ma non sapeva cosa. In uno di questi momenti telefonò a Maria, che forse era tornata da Riccione, dove aveva avuto molti amanti. Perché ne fosse così certo, anche questo non sapeva, ma lo era. Gli dissero che era partita per Cannero, ospite di amici che aveva incontrato a Riccione. Cannero. Dov'era Cannero? Comprò una carta stradale e guardò. Cannero era sul Lago Maggiore. Da quel momento decise di andare a Cannero. Guidò senza interruzione e in modo irrequietissimo fino al Lago Maggiore. attraversò paesi che si chiamavano Arona, Cannobbio, Stresa, e sempre fu accompagnato da un'acqua piatta colore dell'acciaio alla sua destra, finché arrivò a Cannero. Qui l'irrequietudine scomparve di colpo e diventò vergogna e paura. Doveva cercare la villa dove era ospite Maria, si vergognava e aveva paura di quel lago con lame di luce così affilate e immobili. Lo stesso cercò la villa dove era ospite Maria e passò di villa in villa su quel plumbeo lago, suonando campanelli, salendo prode sepolte nel verde e diventando sempre più pallido ad ogni campanello. Trovò la villa, enorme, bianca tra i cipressi, con una barca nera e una vela bianca. La villa era deserta. Il custode disse che Maria era partita. L'uomo tornò dentro la sua topolino e guidò senza mai fermarsi fino alla città dove abitava Maria. Qui tirò un sospiro di sollievo e gli parve di essere meno irrequieto, ma telefonò in casa di lei e gli dissero che era uscita. Forse non era vero. Allora cominciò a girovagare per la città guardando tutte le auto per riconoscere quella di lei o se lei c'era dentro per caso in qualche auto. Poi si fermò con un conoscente che gli disse subito: «Proprio in questo momento è passata Maria, non l'ha incontrata?» «No», disse l'uomo, e sentì la sua voce accartocciata come quella di un malato. Si domandò: «Di che cosa sono malato? Che malattia ho?» In quel momento apparve la macchina di Maria con lei dentro. L'uomo non la vide, ma il conoscente disse: «Ecco Maria!» L'uomo, con la debolezza e l'accartocciamento della malattia, girò appena il capo e la vide, dentro la macchina bianca e scoperta. Era più che abbronzata, era nera, con occhi molto bianchi, denti bianchi e i capelli schiariti dal sole, acciambellati sul capo e qualche ciocca sul collo. Senza rallentare, la ragazza sorrise con il biancore dei denti, alzò una mano per salutare e riprese la corsa. Pallidissimo, sempre chiedendosi che malattia aveva, l'uomo saltò sulla topolino e la inseguì. Lei si vide inseguita, aveva a bordo una signora. Vide anche di lontano il pallore malato dell'uomo e cominciò a correre. L'uomo le fece dei gesti di fermarsi, suonò anche il clacson, dapprima a colpetti, poi a lunghi tratti, poi senza interruzione, ma lei correva sempre di più, superando semafori rossi. «Cosa fai? Sei matta?» le disse la signora vicina, un'amica saggia, una delle solite amiche sagge. «Non lo vuoi vedere?» «No», disse la ragazza e spinse l'acceleratore. In quel momento l'uomo le arrivò accanto con la topolino. Suonava sempre il clacson ed era completamente in preda alla malattia. Aveva anche la febbre. «Non lo vuoi vedere proprio?» domandò ancora la signora sagge, un poco divertita. «No», disse la ragazza e strinse le labbra. «Poverino», disse la signora saggia e cominciò a ridere come ridono le signore sagge. Proprio in quel momento l'uomo girò di colpo il volante e investì la macchina della ragazza di fianco. Le due auto si fermarono al bordo di un fossato. La bella spider inglese di lei era rovinata, senza però danni alle persone. La signora saggia protestò vivacemente, ma l'uomo giovane e forte, così si sentiva in quel momento a differenza di prima, la prese per un braccio e l'allontanò dicendo: «Se ne vada, devo parlare a Maria». «Che modi!» disse la signora saggia e se ne andò sbattendo i suoi tacchetti. L'uomo toccò la pelle della ragazza. Era soda, scura e infuocata e il suo alito era profumato di sangue. Lei parlava ma a voce bassissima e quasi senza fiato. L'uomo si avvicinò con le labbra a una guancia di lei. Lei si schermì, ma lui la prese da dietro il collo con la mano intera tra collo e una ciocca di capelli, l'avvicinò a sé con forza. La gente si era fermata a guardare l'incidente e vi appoggiò le labbra. Anche la guancia era nera, infuocata e vi scorreva dentro molto sangue. Altro che le donne di Forte dei Marmi, altro che mare blu e trasparente di denaro, altro che le ragazze dei ricchi. «Domani ci sposiamo, ora torna con me e lascia qui la macchina», disse l'uomo, e se ne andarono in campagna tra i boschi fino a notte alta. Si sposarono. Lei aveva un vestito da mare di piqué bianco e rosa. La buona borghesia invitata era come sonnambula nei saloni del municipio. Un amico poeta li portò a Venezia nella sua Mercedes-Benz del 34 e lì li lasciò, sorridendo in modo pazzoide e lunare, come sorridono i poeti di fronte ai raggi roventi della vita. Abitarono 3 giorni al Lido, in un vecchio albergo che ora non esiste più, e si chiamava Regina. Le grandi finestre delle immense stanze erano ombreggiate di glicine e di altri rampicanti. Campanule parevano colorare le bianche tende ottocentesche e le lenzuola. Lei era nera, con la pelle scottante, e si muoveva sulle lenzuola e nei capelli come sulla neve. L'uomo, a cui la febbre era scesa, la guardava. Nera sulle lenzuola, oppure nella vasca da bagno, oppure la seguiva con lo sguardo e con il cannocchiale, nuotare lontano nella calma e fidata acqua lagunare, tra minuscoli guizzi, ogni tanto. Lei parlava poco e possedeva un'autonomia animale, lenta e armonica, che la poneva in contatto diretto con le cose essenziali ed elementari della vita. Così il suo modo di camminare, di nuotare, di mangiare, di dormire e di amare, e così il suo fiato profumato di sangue. Egli si sentiva escluso da questo contatto, perché era un uomo indiretto, ma gli piaceva molto vederlo in lei e per questo l'amava. Passarono gli anni. Il giovane uomo e la ragazza di nome Maria scomparvero uno dall'altra, insieme al tempo. Ma un altro giorno l'uomo, che era diventato vecchio, si svegliò, come sempre e come tutti i vecchi molto presto, e aprì la finestra. C'era un grande prato di erba appena falciata nell'ombra, con dei covoni, in fondo al prato un bosco quasi nero, con dentro un fagiano, sopra il bosco un cielo limpido e ventoso di settembre, con aria di mare. In mezzo al cielo viola una stella che scintillava in modo arabo. L'uomo pensò ai giorni qui descritti, soprattutto alla pelle scottante e all'alito profumato di sangue, e nella sua mente di vecchio formulò la parola gioventù. Guerra. Un pomeriggio di luglio del 1944, nel nord dell'Italia, le cicale cantavano e due uomini e tre ragazzi camminavano nella polvere di una strada di campagna, con lunghe pistole in pugno, tese in avanti, come per inginocchiarsi e sparare. Il canto delle cicale smetteva al loro passaggio, calava un grande silenzio e si udivano i vestiti, le scarpe e le armi. I due uomini erano militi della Guardia Nazionale Repubblicana. Due dei ragazzi erano in divisa delle Brigate Nere e un terzo in borghese, si chiamava Ico, Federico, ed era di statura piccola, con una testa rotonda, occhi rotondi e quasi bianchi e un nasino all'insù. Era vestito in borghese da gagà, con pantaloni di gabardin verde oliva, scarpe di camoscio marron con la suola ortopedica di sughero, una camicia crema di seta pura e un foulard blu a pallini bianchi sotto il collo aperto della camicia. Si vedeva luccicare dell'oro tra pelle e camicia. Era profumato e i capelli ondulati ed esangui erano lunghi alla nuca, lucidi di brillantina e pettinati in modo da formare due ali che dalle tempie si congiungevano dietro la testa. Allora era di moda. Ico aveva braccia corte, mani piccole e piedi piccolissimi, aveva qualcosa di impercettibilmente deforme, un po' donna e un po' nano, ma non si vedeva se non osservando attentamente in seguito a un'impressione di disagio. Si vedeva invece la sua sicurezza e decisione rispetto agli altri che pareva comandare. La sua apparizione, troppo elegante per la sua età, 16 anni, con la pistola nel piccolo pugno, era diversa da quella degli altri e strana in quella polvere, che si snodava senza fine, senza alberi nel tremolio dell'aria arroventata. Ico era figlio unico di una bustaia di quelle zone. Non si sa come, non si è mai saputo chi fosse il padre di Ico. Viveva con la madre, frequentava la scuola dei Salesiani, era uno scolaro intermittente, a volte primo, a volte ultimo della classe, ma aveva quella deformità che quasi nessuno vedeva, ma che lui sospettava vedessero. Quando sospettava, gli occhi tondi e bianchi si rimpicciolivano e la pelle bianca di donna diventava rossa. La madre, senza sapere il perché, temeva sempre per lui, forse perché era figlio unico e senza padre, ma in realtà anche lei sapeva di avere un figlio leggermente deforme e con aspetti di donna. La pelle, le mani e i piedi così piccoli e le mammelle rotonde un po' ballonzolanti nel piccolo corpo magro e ben fatto non erano normali. Fin da bambino Iko era vestito con molta eleganza e ricercatezza dalla madre, che gli metteva spesso una forcina nei capelli. Alla fine del 1943 Iko si arruolò volontario nelle Brigate Nere e diventò subito una specie di capo. Organizzava rastrellamenti insieme ai tedeschi e comandava le azioni peggiori in quella zona. Iko era noto. Andava, veniva, scompariva. Durante l'inverno portò un cappotto corto e molto aderente, una sciarpa di lana di angora giallo canarino e un cappello borsalino, molto schiacciato e a larghe tese, un po' obliquo sull'orecchio destro. Non portò mai la divisa. Era il solo a non portarla e i suoi capi glielo permettevano perché Iko era un poliziotto molto bravo nonostante l'età. Aveva molto denaro, non si sa come, e quando non scompariva per azioni in campagna o in montagna, stava quasi sempre dal sarto a fumare e a provare vestiti. A un certo punto al suo polso sottile apparvero un Patek Philippe d'oro, un braccialetto d'oro e al dito un anello d'oro con uno zaffiro. Aveva d'oro anche il portasigarette. Nessuno sapeva di dove venissero, era sempre solo e mangiava solo al ristorante come un uomo, un impiegato. Quel giorno di luglio del 1944, sotto il sole e la paglia disseminata in grande quantità lungo tutta la sconfinata pianura, Iko aveva occhi molto lucidi, rotondi e allucinati. Altre volte aveva quegli occhi, dicevano che si drogasse, ma non era vero. Quel giorno Iko cercava un paracadutista inglese, sceso durante la notte e nascosto in chissà quale di quelle casupole con i letamai. La campagna deserta nell'aria tremolante, le cicale lontane insistenti e il luccicare degli occhi di Iko dicevano che doveva essere lì vicino. Iko camminava sorridendo, sempre camminando nella polvere bianca. Anche le scarpe di camoscio marrone erano diventate bianche, ma egli nel suo rapimento pareva non essersene accorto. Arrivarono a una casupola senza alberi, con un porcile, un pozzo e due galline sul pozzo. C'era un cespuglio e nel cespuglio il canto fortissimo di un grillo. Iko aprì la porta della casupola ed entrò per primo con la pistola spianata. Dentro la casa c'era un vecchio con una gamba di legno seduto che fumava la pipa e una donna sui 30 anni in piedi, alta, bella di forme, con i capelli lunghi, rossi e ricci, il lutto stretto e calze nere che fumava. Era la figlia del vecchio, ma non pareva una contadina e parlava molto male in italiano. Iko controllò i documenti e vide che era nata in Svizzera. Non era bella di faccia, aveva un volto lungo e rettangolare di uomo, ma sotto il vestito si vedeva che era nuda. I militi perquisirono la casa, ma non trovarono niente. Iko parlò con la donna e a un certo punto vide, in mezzo a tutto quel lutto e a quelle calze nere, un piccolo distintivo con un fascio. Iko le chiese come mai era lì. «Per la guerra», disse la donna con un forte accento tedesco. «Le piace star qui?» «No, vorrei andarmene. Vorrei fare l'interprete in un comando tedesco». «Perché non le piace star qui?» chiese Iko. «Fa tanto caldo e tante mosche», disse la donna. Iko non seppe nulla del paracadutista inglese e promise alla donna che si sarebbe interessato presso un comando tedesco che stava in una villa vicina. Uscì dalla casupola e riprese a camminare in testa agli altri, in mezzo alla bianca strada polverosa. Il suo sguardo era sempre più rapito e il cuore gli batteva forte nel petto. In quel momento Iko vide una grande nube di polvere lontano a una curva della strada. Le cicale non cantavano in quel momento e tra la polvere vide e non vide l'automobile che veniva avanti veloce ma slittando. In un gran polverone si fermò accanto a loro. Dall'automobile scesero due tedeschi e due della Brigata Nera, tra cui un ufficiale. Tutti erano armati e puntavano le armi contro Iko, che sorrise per salutare. L'ufficiale disse: «Dammi la pistola, è meglio». E con un gesto veloce e leggero tolse la pistola dalla mano di Iko. «Sei stato fesso, Iko», aggiunse. «Perché?» disse Iko sorridendo. Aveva il cuore in gola. I due della Brigata Nera lo ammanettarono e lo spinsero dentro l'automobile. Iko fu portato a Kostoca, dove c'era un comando della Brigata Nera, processato per rapina e condannato a morte. Non credeva né al processo, era durato poche ore, né alla condanna. «Scherzano», pensava. «Hanno fatto tutta questa messa in scena per darmi una lezione e spaventarmi, figuriamoci se mi fucilano, proprio me fucilano, e gli altri allora?» Con questo pensiero ben fisso nella mente mangiava, dormiva, fumava e si cambiò d'abito anche due volte al giorno. Una donna che lavava le sue camicie di seta le portava al comando dicendo: «Per il signor Iko». La madre andò a trovarlo e lui la rassicurò con il suo pensiero. La madre se ne andò dal comando completamente rassicurata e per strada, era in bicicletta, si fermò in una casa di contadini per bere dell'acqua che venne tirata su dal pozzo perché fosse più fresca. Bevette direttamente dal secchio, fece quattro chiacchiere e convinse i contadini a venderle una gallina. Il giorno dopo, alle 11, portarono Iko fuori dal comando sulla piazza. Iko si vestì con un paio di pantaloni di lino bianco, camicia bianca e foulard marron con delle piccole teste di volpe marca Lynx. Nella tasca dietro infilò il portasigarette d'oro. Sorrideva e scherzava, pensava: «Vogliono farmi paura, darmi una lezione perché non lo faccio ancora». Se fosse stata una cosa seria, avrebbe visto almeno una volta il suo superiore, il maggiore Volga. E poi non ci sarebbero stati proprio i ragazzi della squadra che lui comandava. Così pensava. «Mi raccomando, ragazzi, mirare al cuore, tirare dritto, marsch!» disse ridendo. Distribuiva qua e là manate sulle spalle, con le due mani legate, ai ragazzi in divisa con il mitra. Uno era in borghese, come lui, ma non era elegante, anzi sembrava un povero. «Hai capito, Luciano?» disse Iko rivolgendosi a lui. «Chiaro?» e fece l'occhiolino. Luciano sorrise e abbassò gli occhi, poi rise. Davanti alla chiesa non c'era nessuno, nemmeno il prete. Iko non lo aveva voluto vedere. «Finché si scherza, ma non con la religione», aveva detto. Lo misero con la faccia rivolta verso il muro della chiesa già rovente, con lucertole vaganti. Iko sentì borbottare dietro di sé poi la parola «puntate» mezzo sussurrata e pensò ridacchiando: «Se credono di farmi paura». Si girò a guardare. In quel momento udì un ordine, vide i mitra e il fuoco e vide che lo fucilavano. Fu sepolto nel cimitero di quel paese. Per 25 anni era possibile vedere una piccola lapide con una foto ceramica incorniciata di ottone, sempre lucido. Dopo 25 anni il comune trasferì i resti in una fossa comune e ora di lui non c'è più nulla. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.